Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Furono ad una accerchiate e distrutte, e cadde infine la splendida capitale di quel popolo, Troia. I vincitori achei, caricato il bottino, avevano ripreso il mare. Tra questi era Ulisse, il più astuto dei greci, che molto aveva sofferto già in guerra e aveva un cuore avvezzo alle pene, ma più avrebbe sofferto sul mare. Il dorso del mare è ampissimo e privo di sentieri. Ma Itaca è sempre là, davanti a questa prua. Da quanto tempo ti cerco, Itaca? Buonasera, e questo era un po' un inizio particolare, perché come avevamo pronunciato, vero Stefano? Sì, buonasera a tutti. Avremmo ripreso le programmazioni, insomma, dopo una settimana di pausa, proprio concentrandoci e come dire, entrando un po' in quello che è, insomma, in questo mondo della narrazione, della storia e dei rapporti tra comunità e modo di raccontare queste storie, giusto? Giusto, e il modo di raccontare questa sera lo percorreremo attraverso diversi, appunto, modi e diversi paesi. E da dove partiamo, Vladimiro, questa sera? Ma intanto siamo già partiti, siamo partiti proprio da quello che è un po' il poema epico per eccellenza insieme all'Iliade, ovvero sia dall'Odissea, riprendendo proprio l'inizio di questo famoso sceneggiato televisivo della Rai di Franco Rossi, l'Odissea. Quindi in qualche modo noi partiamo da quella che è un po' la più antica forma di narrazione, di, come dire, che è quella orale, che è quella poi di tradizione orale, che che rappresenta un po' la storia, vuole rappresentare la storia della comunità prima che ci fosse appunto la storica, il mistero di storico come lo conosciamo oggi, quindi vari, da Erodoto poi a Tucidide e via dicendo. E infatti in qualche modo, Omero rappresenta un po' un personaggio che in realtà appunto così è misterioso e così, difficilmente intellegibile, in quanto proprio alla fine proprio degli studiosi che hanno lavorato invece su dei poemi epici ancora presenti in qualche modo, soprattutto quando loro hanno fatto ricerca, quindi più o meno un secolo fa, potevano riscontrare in questa poesia epica della trasmessa oralmente, quindi attraverso delle formule, attraverso non testi scritti ma testi recitati, che avevano appunto delle molte cose in comune con il sistema di composizione dei poemi omerici, hanno potuto fare questo confronto. Parliamo di Minman Perry, questo studioso americano che insieme ai poi ai suoi allievi, tra cui Lord, che ha scritto un libro appunto Il cantore di storie, sono andati nelle regioni della Bosnia, del Kosovo, insomma di quella che allora era Jugoslavia, dopo tra la prima e la seconda guerra mondiale, a fare delle ricerche con questi personaggi, questi cantori, questi bardi, che accompagnati da degli strumenti monocordi che si chiamano lauta in albanese e gusla la gusla bosnia in termo slavo, praticamente recitano dei grandi poemi che sono dedicati a dei personaggi storici, e sono poemi molto lunghi, cioè sono questi poemi epici possono durare anche ore. E anche le registrazioni che da allora in poi sono state fatte sono comunque registrazioni abbastanza lunghe. Ancora adesso ci sono dei suonatori, l'epopea balcanica ancora è viva, e in qualche modo noi partiamo proprio da questo e non è, appunto, non è difficile trovare anche dei video, insomma, materiali su questi musicisti. Le prime registrazioni sono state fatte dopo queste ricerche importantissime di Perry, Lord e altri allievi, che hanno un po' aperto una nuova prospettiva sulla visione di quello che era il poema americo e l'idea che comunque poteva esserci anche una tradizione non scritta che si era tramandata attraverso i secoli. E in questo caso proprio i due musicisti che andiamo a sentire, il primo si chiama Alin Nikski ed è di Turcima, del Kosovo, e poi il secondo è Radomir Burzanovic, e sono tutti e due dei brani da dei poemi epici, canti epici dell'appunto Kosovo e Bosnia. Щери моя, груїчи чамара, Санах сніла, віше гальне сніла, віше брат чужим углядат нечеш. Ей, сестре, май братів у походе, от према се груїчи чамара, паузи ма торбу сингавицу, у ню кіла жене ракіє, і два кіла віна црвничкога, jednu grundu sira njeguškoga, u maramu dva dukata veže, a na noge opanke priteže, pa je eto ko mlada košuta, pro potoka i kamena ljuta, dokle sađe polju i ravnici, blizo grada varoš Podgorici, dolazila do prve bolnice, moli sluge preklinjenje kara, ima novde mitra varjahtara, sestra draga, što za brata pitaš, ja poznajem moje bolesnike, mitra nema među ranjenike. Questi quindi erano due esempi di questo canto epico, appunto scoperto in qualche modo da Minman Perry negli anni dopo la prima guerra mondiale, per, nelle sue ricerche per trovare una qualcosa che fosse, insomma, che ricordasse un po', e che è stato un po' il suo modo per ritrovare quello che doveva essere il poema remerico, ma non secoli fa, ma assolutamente nel suo contemporaneo, ma l'ha trovato nella Jugoslavia di allora. E qui abbiamo sentito due esempi che vengono registrazioni degli anni invece degli anni 80 del secolo scorso, e una tradizione che comunque ancora sopravvive, sì, tra il Kosovo, la Bosnia, insomma, con questi suonatori guzla che raccontano queste storie, appunto, tipo, potremmo dire quasi delle favole, no? Sì, sono. Noi ho provato ad ascoltare la seconda, e racconta di questa montenegrina che aspetta il fratello e prepara. Intanto si descrive tutto quello che prepara per cena, quello che porta, l'immancabile grappa anche. Per chi ricorda tutta la descrizione nell'Iliade, tutta la descrizione delle navi, di cui è dedicato un libro intero, delle navi e dei comandanti. Era un modo per, il catalogo per fare delle queste navi, storie, sì. Raccontare, descrivere in modo dettagliato, era anche un modo, anche, come dire, per magari usare quelle che si chiamano formule, no? Dei motivi che ripetuti e non perdere nella memoria questi elementi, no? Magari c'erano molte cose che sembravano allungarsi, ma insomma rafforzavano in realtà questa memoria nel... Infatti la ripetizione musicale che fa da basso continuo, diciamo, sotto, c'è, è un fatta bordone continuo, per, come si sente, per ricordarsi tutte le strofe. La musica sostanzialmente è un sostegno, un recitativo, e poi andremo a sviluppare questo rapporto tra poesia epica, canto epico e teatro. E proseguendo cambiamo un po', rimaniamo sempre in questa atmosfera, perché nell'Egitto, nel nord dell'Egitto, anche appunto fino a pochi decenni fa, era rimasta in alcune aree la tradizione di questa sira, che è una specie appunto di poesia epica, di narrazione epica, che racconta la storia delle tribù dei Beduini che, arrivati dall'Arabia, sono arrivati fino all'Egitto. E quindi ogni tribù aveva, o comunque c'erano varie storie, e accompagnate anche qui da uno strumento molto simile alla guzla, a volte oppure addirittura dei violini usati come la guzla, quindi usandoli con un pedale di corde in questo modo. Suonati in verticale. Esatto, e quindi con questo rabab si accompagnavano queste melodie. Noi andiamo ad ascoltare in particolare una registrazione anche qui del 1982, casualmente, di questa storia, introduzione alla storia di Abu Zeid el Hilali, che era appunto un eroe, un personaggio storico, anche lui si diceva un bardo, questo musicista Nadir Osman, questo ci fa sentire questa musica, e insomma Buon ascolto. Buon ascolto. وسنة في غلب الليالي così andando e lo lasciamo anche di sottofondo. È il deserto, un pezzo molto lungo, il fuoco, è un pezzo lungo che era solo l'introduzione, per dire, insomma, ecco. Nel frattempo con Vladimir ci siamo fatti un po' di viaggi. Comunque sì, questa tradizione qua, vediamo, cioè se paragoniamo con la simile tradizione dei Balcani, molto diversa. Là c'è uno da solo che fa una melodia che è quasi statica. Qui abbiamo sentito solo nel giro di pochi minuti almeno 3 o 4 cambi di ritmo. Il ritmo nella musica araba è tutto, sì, sì. È la parte fondamentale. Infatti, soprattutto nella musica cosiddetta tradizionale, rurale. E vive nella musica tradizionale, che è una musica, diciamo, sinfonica araba, passami questo termine, certo. Che sarebbe per esempio il maqam al-Iraqi, che è diviso in 4 parti, esatto. Con ritmi diversi, che racconta anche questo una storia. Però questo, diciamo, è proprio l'incontro, come dicevi tu all'inizio, della comunità, no? Sì, perché tutte queste storie sono storie di eroi fondativi che raccontano proprio l'origine della terra, dall'Arabia, tutto il viaggio, insomma, come se fosse, non so, una specie di Bibbia profana, insomma, che rappresenta la storia, la biografia. Infatti in questo nome Shira, che poi viene usato anche nel Corano, per il Corano, è proprio una cosa che difficilmente si può pensare in termini nostri, più che un poema epico come lo pensiamo noi, è una cosa basata sulla tradizione orale, ma proprio che è quasi più una biografia di una comunità che viene messa in musica e trasmessa in questo modo, quindi è una cosa più, ancora più, esatto, più, quindi questi eroi sono identificati come persone esistenti, probabilmente. E passiamo adesso in Finlandia. Tutto ad un tratto da sud a nord, così ci ricordiamo anche che fuori fa freddo. Sì, però è anche, diciamo che è sempre un po' una tradizione, appunto, questa che è abbastanza diffusa, questo appunto. Quando si pensa poi solo poemi epici, solo a livello letterario, una tradizione che va sì dagli antichi poemi di Omero, eccetera, eccetera, o l'Eneide di Virgilio, per arrivare poi fino anche ai vari, appunto, alle saghe nordiche, appunto al Kalevala finlandese. Ecco, e proprio di questo parleremo adesso, del Kalevala o Kalevala. Adesso l'accento ce lo correggeranno, se c'è qualche finlandese in ascolto magari mandi qualche messaggio in trasmissione, noi siamo contenti anche di, insomma, di condividere questo, chiamiamolo per adesso, poema epico. Perché per adesso? Perché Elias Lönnrot, che questo signore che verso metà 800 è andato in giro proprio per almeno, no, per tanti paesi, ma nell'arco di 15 anni ha vissuto anche con i contadini della zona della Karelia, insomma in tutte le zone della Finlandia a confine con la Russia anche, no? E ha raccolto e trascritto, cosa che non c'era prima, no? Il Kalevala è stato scritto da Elias Lönnrot, con alcune anche aggiunte personali, ma secondo gli studiosi, secondo Setala o altri studiosi, poche, per fortuna, insomma. E quindi parliamo di un poema epico che identifica i finlandesi e la Finlandia. Infatti i finlandesi sono figli di Kaleva, questa entità che non compare mai nel Kalevala, anche se ne dà il titolo, no? E cosa succede? Che la scrittura ha dato una forma a questo poema, che però si presenta in 50 runot, no? Che sono come dei capitoli, che sono 50 storie, no? Che però non hanno un'apparente coerenza uno con l'altro, no? Alcune volte sì, alcune volte no, alcune volte ricompaiono persone che erano morte qualche capitolo prima, no? E insomma si tratta di una storia lunghissima, che però i finlandesi giustamente amano tantissimo, e anche i russi in realtà, quelli confinanti. E cosa succede in questo Kalevala? È una specie, come diceva il mio collega qua prima, anche questa è una Bibbia profana, perché diciamo Elias Lönnrot l'ha salvata in qualche modo dal cristianesimo che stava cercando, insomma, di insegnare i suoi inni a tutti e fare tabula rasa di tutte le individualità nazionali. Ora, un altro studioso, Armas Launis, che è diciamo l'unico etnomusicologo, non è l'unico sicuramente, ma quello che ha fatto più lavoro, insomma, all'inizio del 1900, tra fine 800 e 900, ha registrato su cera, come faceva Bartok, alcuni canti di questi bardi. Tra poco ascolteremo il signor Livo Lipizza, figlio di Timo Lipizza, che canterà un runot del Kaleva che parla di Väinämöinen, no? Che è uno dei semidei fondatori, che fa una gara con un altro mago che è Jukainen, che è un po' meno potente di lui, no? E che lo vince al canto, no? E dopo però per salvarsi lo fa sprofondare in una palude, e poi per salvarsi Jukainen, quello che è sprofondato nella palude, gli dà in cambio la figlia, no? Però visto che il signor Väinämöinen, nato da Ilmatar, la dea dell'aria, era nato vecchio, quindi non tanto bello per la figlia non lo vuole, scappa e si suicida, come fa Ofelia con Amleto, insomma, succede la stessa cosa. E quindi cosa. Andiamo a sentire. Abbiamo a sentire il signor Ivo Lipizza, registrato da Armas Launis. Väinämöinen, toin oli nuori joukahainen, ajetti hyö vastakkahe. Aisapa tarttui aisan piehän, rahkis rahkehta kertui, vesi tippui vempelestä, osvauen aisan piestä, rasva kiehui rahkehesta. Virkkipä nuori joukahainen, sinä herra, minä herra, kumpi meistä tien pitääpi, virkkipä vanha Väinämöinen. Mitelläpä miekkojamme, koitella pakkonstiamme, kummallon miekka pitempi, jolla on korttaa korkeampi, sehän tässä tien pitääpi. Mitelti hyö miekkojansa, koiteltiin pakonstiansa, tuompaa vanhan Väinämöisen. Miekka tuli pitemmäksi, jopa korttaa korkeammaksi, hiki tippui nuoren piästä, virkkivä vanha Väinämöinen. Minkijät syvintä sanoa, tuontijän syvintä sanoa, kaivot on kaivettu syväksi, mäet on myllätty ylös, luuot on koko luotu, virkkivä vanha Väinämöinen. Lapsen kiiot, naisen muiskit, ei ole pardas sun urohon, eikä miehen karvarinnan. Viel minä sinunkin laulan, suillumehen päin vijihe, kobrin kovahtan terehe, hampahin vesi hakohe, polvin suohon vetelähe. Virkkipä nuori joukahainen, vaivaa miulon tiellä olla, suillumessa päin vijissä. Thank you. Allora, abbiamo sentito queste due melodie ipnotiche, una fatta con la voce del cantore registrato dal signor Armas Launis. E questa raccolta, non c'è solo questo cantore, ma ce ne sono tanti con nome e cognome e in un catalogo anche la data di registrazione e il luogo. The Kalevala Heritage Archive Recordings of Ancient Finnish Song. Questo è il disco dove sono raccolte queste cose preziose, no? E dopo ho sfumato un pochettino per farvi ascoltare anche l'altro strumento importante finlandese, oltre alla voce, che è il cantele. Il cantele, che è una specie di cefra da tavola. Esatto, come avete sentito, una specie di... fa ricordare un po' l'arpa celtica, anche se è un po' più metallica, sì, è un po' più delicata. Effettivamente, per esempio, anche in Islanda accompagnano con l'arpa. Una specie di arpa, per la famiglia dell'arpa, queste ballate, che poi sono ballate, ho usato ballate, anche se chiaramente per ballate si intende il campo narrativo più di origine medievale, però in alcuni casi le ballate, appunto i canti narrativi di origine medievale, soprattutto in alcune zone, hanno ripreso fortemente degli elementi epici o degli elementi magici che chiaramente facevano parte di questa tradizione, mentre magari soprattutto in Europa occidentale l'elemento magico è diventato qualcosa di più realistico, cioè esatto. Si intende... Infatti il Kalevala o Kalevala, adesso perdonatemi se sbaglio l'accento, ha elementi proprio oltre che magici anche mitologici, quindi alcune volte ci sono personaggi che potrebbero essere esistiti, ma in realtà alcuni studiosi dicono che è tutto una descrizione di movimenti celesti, no? Addirittura e la creazione del Sampo da parte di Ilmarine, il fabbro degli dei, il Sampo sarebbe e il mondo fondamentalmente. Beh, ma anche la storia del duello, ricordo molto, è la storia del duello tra Apollo e Mircea. Per esempio, oppure più avanti il signor Väinämöinen va nell'Ade come Odisseo, tra l'altro quella parte dell'Odissea è un po' diversa da tutta l'Odissea, no? Sembra certo. Non messa lì a caso, ma non è che è collegata proprio in maniera... coerente, forse ho detto una bestemmia per gli studiosi, però parafraso Giorgio de Santillana, che ha scritto Il mulino di Amleto, e parliamo di comparatisti, quindi cercano qualche gli studiosi che cercano qualche analogia, una specie di domino culturale, certo, fare domino culturale che non ha mai fine, non sì, ha mai esatto, fine, purtroppo ne parlavamo l'altra volta. E niente, l'ultimo ascolto, diciamo per visto che noi siamo etno chic, l'ultimo ascolto andiamo proprio nel presente, no? E vi faremo ascoltare le tre cantrici molto famose, sempre un gruppo finlandese, si chiama Vartinna, che significa fuso che gira, il fuso che gira, no? Che poi spesso l'arcolaio, cioè comunque stare nelle Finlandie, per esempio, in molti paesi era proprio il luogo dove si raccontavano queste storie. Molte volte il Kalevala è anche cantato da ensemble polifonici. Le Vartinna, che ascolteremo adesso con la canzone Selinikko, adesso non vi dico di cosa parla perché dire tutto purtroppo abbiamo poco tempo, sono tre voci con anche accompagnamento strumentale, questo dal disco Vartinna, proprio Selinikko. Ja se. Appunto siamo andati un po' in avanti per parlare sempre di, insomma, del mondo del Kalevala, insomma, qui Vartina. In realtà è un po', come dire, una parentesi per, insomma, arrivare a parlare un po' del rapporto, insomma, tra il vecchio, antico canto epico, quindi mondo omerico, e nuovi modi espressivi, e come questo canto epico si trasforma e trova strada anche con i cambiamenti sociali. Quindi sì, queste tribù che arrivano e diventano da popolazioni nomadiche a popolazioni stanziali, e poi con la costruzione della società feudale dei regni cambia un po' il modo anche di espressione e di organizzazione della società. E nonostante tutto questo abbiamo dei residui, delle permanere di questo discorso, del legame con questa storia epica. Basta pensare, dal punto di vista letterario, appunto al ciclo della chanson de l'Orolan, piuttosto che il ciclo di Re Artù, tutti questi poemi che per tutto il Medioevo, con i vari roman, eccetera, la canzone cortese, i trovatori, trova linfa per poi svilupparsi in quello che sarà quella che viene chiamata come ballata popolare o canto narrativo, che arriverà poi fino al giorno d'oggi. E quindi magari all'inizio i protagonisti saranno Tristano e Isotta, piuttosto che Lancillotto e Ginevra, Orlando, eccetera, personaggi, e poi pian piano saranno magari sempre questi personaggi reali, però visti come i problemi magari della società contadina, per poi arrivare ai fuorilegge, per poi arrivare, insomma, al mondo dei cantastorie e al cantautorato moderno. In questo percorso molto lungo noi in realtà adesso ci fermiamo un attimo a vedere appunto uno tra i mille esempi di canto narrativo e ballata fondata però su questi elementi di cultura epica, e andiamo a, solo per dare un esempio di come nella cultura europea rimane questo aspetto, in questa ballata del piccolo Costantino, amico Costantinos, dall'isola di Cipro. E questo ciclo anche qui è legato a un ciclo di questo eroe che si chiamava Digene Acrites, che era ritenuto uno dei difensori dei confini bizantini contro i turchi. E quindi quella storia di questo amico Costantinos, di un eroe che è costretto, dopo un po' che è sposato con la sua bella, insomma, ad andarsene via, poi lei viene cacciata da delle parenti, dalle male lingue, insomma, così è costretto ad andarsene, finché poi lui dopo molti anni la ritrova, che lei va non a caso un po' come un bardo alla corte, e gli racconta e gli canta la sua storia. Allora lui la riconosce e gli chiede perdono, e tutti vissero felici e contenti, insomma. E questo è un frammento di questa ballata registrata negli anni 70 a Cipro. O Costantaso, micro Costantaso, micro pandre menos, trioni meri, no gambro, sirtenduto taxidi. Sanetro estimanan du trabezo kafismena. Ebu paisa Costanta gemenan buma finis krio. Fino se prodas to theon gisteras tim partenan, na fino se estimana mutra bezo kathismena. Fila et ingalimu mana mutingalimu, na disestronis enoris, na pefti butanoras, na dixipnas, na comporno mentimare no ipno. Tiene yemus to calon, tine nyantis meneshis, o son jeparak sediken, jebakan boson topor, ebepsenis to psalian, jefernum nya psalian, ebepsenis to tsaeran, jefernum nya tsaeran. Jebutoftin din epiasen, jebano din gathiski, jekovkita malajadis, giru giru stafiadis. Naskufiandis eforisen, galo irin din gamni, via dispende provata, via dispende idia, via dispende kafkalje, che excepta kromidia. edo gendisti sakfani sako majem yashillan ehe donu su abisti ehe donu su Tra il 1400 e il 1500, in pieno Rinascimento, anche sull'influsso dell'umanesimo, insomma, riscoperta dei classici, riprende un po' il gusto del recupero anche di quelli che erano un po' appunto, il discorso epico e anche il romanzo cavalleresco. Basta pensare, noi siamo al Torquato Tasso, Ludovico Ariosto, insomma, e quelli diventano degli esempi e come dire. Influenzano molto anche la cultura popolare, tanto pensare al teatro, non so, dei pupi piuttosto che certo. agli spettacoli popolari non dimentichiamo l'Orlando Furioso del maggio drammatico che poi andremo a parlarne penso, forse in chiusura proprio di questa puntata. Però prima ci soffermiamo sempre per stare in zona diciamo del mare Mediterraneo orientale questo romanzo molto importante, questo romanzo cortese, questo che si chiama Erotocritos, è praticamente scritto da questo nobile veneziano cretese che si chiamava Vincenzo Cornaro e che appunto era una storia appunto anche qui d'amore sul modello appunto dei romanzi insomma cortesi che del poemi romanzo cavalleresco del tempo di Ariosto, Tasso eccetera eccetera, questa è un po' la versione cretese e a questo è legato questa melodia che ancora adesso viene suonata e comunque è stata tramandata e si ritiene che appunto potesse essere cantata e ancora adesso si canta proprio sui come dire usando il testo o versi delle strofe dell'Erotocrito e qui lo sentiamo una versione della parte est di Creta della provincia di Sitia eseguita da Vangelis Vardakis al violino accompagnato dal lauto e quindi ve la facciamo sentire. Βράδιασε, σκοτίνιασε, κοιμούνται στο παλάτι και με γνιαεί το η αρετή και λογισμούς γεμάτη. Πολύ εγκαταλαγιά σας είχε εκείνη ετσάτημένη εις το κατώ η εκαθετώ την ώρα κι ανημένη. Όπου θέλω Ρωτόκριτος να πά να τσιμιλήσει κι είχε μεγάλη πέθη μια πότε να του γρυκίσει. Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός να μιληθούν τα πάθη κι ο γης τα λούντος τα κρουφά να ακούσει και να μάθει. Στο παραθύρι αρετή στέκε κι ανημένη το σκοτωσκήνο δε δειλιά, ύπνος δε τη βαραίνει. Έσημος ο Ρωτόκριτος στο παραθύρι απλώνει κι αγάλινα και σίγανα ποιος είναι φανερώνει. Τρέμα αυτή στη μια μεριά και εκείνος στην άλλη κι όχι στον άλλο ανημένε την εμιλιά να βγάλει. Μια ώρα στεκαμίλητη και τα πολλά που χώναν έχασα τα σου φαίνεται την ώρα που σημώνα. Δεν είχαν την αποκοτιά τα θέλουν να μιλήσουν, δεν ξέρουν από ποια μεριά τα πάθητος να αρχίσουν. Και θέλοντας να πουν πολλά τα λίγα δεν μπορούσει, το στόμα το σε σώπαινε με την καρδιά μιλούσει. Dicevamo che una delle strade che si è trovato questa poesia epica, insomma questa tradizione nella cultura popolare, quella più teatrale, quella di teatro popolare, la cosa più vicina a noi che abbiamo è proprio il Maggio drammatico dell'Appennino, in cui molti paesi del modenese, del reggiano ancora, tra l'Emilia e la Toscana hanno queste rappresentazioni. Ricordiamo c'è un Maggio drammatico e un Maggio lirico, che invece è legato più al cantamaggio, insomma ai momenti di, insomma, come dire, di cambio stagionale. Invece questi sono proprio degli spettacoli in cui ci sono dei testi di poeti popolari basati però sempre su queste epopee che ricordano molto quelle o dei paladini o comunque dei romanzi cavallereschi ispirati alla... come l'Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata, eccetera. Dicevamo prima anche con Vladimiro, per riprendere anche il filo del una parte del senso che di questa serie di ballate epos, tutto un paese si mobilita per fare appunto gli scudi, e quindi il senso di comunità è ancora molto forte ed è una tradizione che appunto chi ha studiato, come per esempio quelli dell'associazione Il Treppo e la rivista Il Cantastorie, queste tradizioni, appunto, è una tradizione che si ritrova anche a Sottomeo Principe, in Iran piuttosto che anche in Africa, e in qualche modo poi anche nella prossima puntata andremo a vedere un po' anche in questi, ci allargheremo i nostri orizzonti e vedremo in Africa e in Asia soprattutto come troviamo esempi di questo tipo. Alla prossima volta. Vi vogliamo lasciare proprio con una registrazione dal maggio di Romanoro, provincia di Modena, del 21 luglio 2013, di un maggio drammatico. Arrivederci a tutti e alla prossima settimana. Alla prossima, ciao. ormai da gran padrone. E pur senza compassione i cristiani torturi e uccidi. Finché dura mia esistenza farò questo ed altro ancora. Trovo a me presenti, scordo il verbo del perdono. Pria che il sol giunga al tramonto, nulla resterà di voi. Non ti domando, sai morir pugnando che campar nella vergogna. Se può mancarmi ed il cuore ho tutto